Pronto, salve, sono Tatiana Bazzichelli, HT Baz, volevo raccontarvi della mia esperienza in Havana. Sono entrata a fare parte del gruppo nel 99, dopo essere stata all'EC Meeting di Milano, che è stato anche il mio primo EC Meeting, e in questa specifica situazione ho incontrato non solo molti membri del collettivo di Havana, ma anche tanti altri hacker, attivisti della scena italiana e internazionale. E dopo l'EC Meeting ho cominciato a far parte delle riunioni del gruppo e da lì sono stata attiva fino al 2003, che è poi l'anno in cui mi sono trasferita a Berlino. E proprio perché ho citato l'EC Meeting del 99, volevo ricordare alcune parole di Wau Holland, uno degli iniziatori e fondatori del Chaos Computer Club di Amburgo e di Berlino, e forse è stato uno dei suoi ultimi eventi. E quello che diceva Wow era che l'informazione è potere, il potere è informazione, allo stesso tempo è anche deformazione. Quindi è possibile utilizzare l'informazione per plasmare le cose, dare nuova vita a azioni, concetti e pratiche. E questa per me è stata Havana, un'occasione in cui mettersi in gioco con altre persone e cercare di capire in che modo si potesse utilizzare la tecnologia non soltanto perché era un tool interessante, ma anche perché poteva dare vita a una nuova prospettiva. Una prospettiva sia politica che sociale che artistica. In particolare io ero interessata anche a unire il discorso dell'arte e il hacking. E sono poi argomenti di cui mi occupo tuttora e devo dire appunto che l'esperienza di Havana fa ancora parte di quella che sono io oggi e sarei molto contenta di rincontrare tutti e sono contenta anche di sapere che c'è una nuova Havana. E da una parte forse queste esperienze non sono mai morte perché credo che ce le stiamo portando insieme avanti tutti quanti nelle nostre diverse vite e credo anche che non siano mai morte in quello che è internet oggi, pur se ci sono continuamente tentativi per soffocare certe pratiche, oggi si vede ancora di più. Dopo tutta la situazione, anche per esempio che qui a Berlino è molto sentita di Edward Snowden e degli altri whistleblowers. Quindi spero di incontrarvi tutti e vi mando un abbraccio e ciao.